Make Italy. Attenzione, compagno di Scucci d'Italia che va chiamando. Brecco Italia. Attenzione, a dire se c'è qualcuno? Vabbè, io sto provando stazionarie. Ma qualche balacchino sta usando qua? No, sto usando il 440. Guardami come sto uscendo qua, che c'ho qualcosa di strano oggi, non vorrei... Cosa c'è, qualcosa di strano? Che cosa? No, mi sembra che c'ho basso ricezione, basso QRM, cioè, normalmente è sempre la manetta, oggi è bassissimo. Non lo so, vabbè, non so cosa dirti. Non lo saccio. Stavano stazionare da son basse, i picchi sono positivi qua, ora sì, sembra di... Sì, che sono positivi, va bene, e io c'ho 1 e 1 c'ho i stazionari, mi sa che lascio così, sarà bene il culo. Ehi, cosa stai facendo, modificando qualcosa? No, devo fare una correzione su alla spirale, però sa che la lascio così, perché non ne avevo niente prima. Adesso c'è 1 e 1, non vanno bene. Sì, comunque quell'antenna ha cambiato da giorno alla notte, lo sai, quella che abbiamo montato, perché era appoggiata, l'hai visto come era appoggiato il piantone, c'avevo le stazionarie un bel alto, adesso anche senza accordatore va bene, ce l'ho sull'1,4, sulla 27, prima invece ci salivano a 4, 3 e mezzo, perché era appoggiata, adesso va bene, mi hanno detto che perdo per dire, un segnale da 9,10 passa a 9 in 27, però in HF guadagna tantissimo. Vabbè, adesso è piazzata come Dio comanda, prima c'avevi, mancava il radiale, molto importante per quelle antenne, e poi era troppo chiusa, adesso più aperta, più in alto, va meglio, capito? Vabbè che siamo troppo vicini, se no ti facevo la prova come usciva, quanto perdevo di segnale da te, ma siamo troppo vicini. No, non fa niente, prova che ti attenuo a vedere. Attento Claudio, come mi ascolti? Sì, non perdi molto, no. 9,60, 9,50. Ok, aspetta, rimetto quella lì di antenna, poi devo fare un po' di pulizia, un po' di ordine in questo affare, così si cavo quel cacchio di ZG, l'hai visto quell'affare TM1000 che è un giocattolo, mi attacco l'MT3000 e facciamo tutto con quello. Forse però quel... orientativamente le stazionarie le segna, non mi interessano i watt, le segna bene le stazionarie, perché forse me lo devi prestare per una mezz'oretta, non interessa di scendere, devo regolare bene la spirale, però mi porto una radio su, capito, con l'alimentatore, non mi serve il rosmetro, io ho il mio e il VU. Aspetta che forse ne un altro, aspetta un attimo. Guarda se ce l'hai uno piccolino, giusto per orientarmi con la misura della spirale, se no mi tocca stare sale e scendi, che domani la metto a posto, gli attacco anche l'altro tirante, oggi non ho voce. Sì, ne ho uno qua, non so però se si è accordato, qua c'è scritto Power SVR, questo è molto vecchio, giapponese, mi ha dato mio zio ma un sacco di anni fa, è una marca mai sentita, Oscar, non so se la conosci. Aspetta, mi stanno chiamando al telefono, scusa un attimo. Ehi, io sono qua. attenzione 10, c'è qualcuno? Ora, attenzione 10. Sì, Robert, sto attaccando l'alimentazione a un alimentatore che ho comprato. Potrei aver sentito anche a Gianni. Gianni che? Gianni era più lungo, mi sembra che c'era anche. Mi sembra che l'ho sentito. Ho chiamato, non so. Allora Cla, io ho questo affare qua, che dovrebbe essere un accordatore, però è possibile che ci sia un accordatore con un unico regolatore, ne hai mai visto? No, ma a me non mi interessa l'accordatore, a me mi interessa il rosmetro per misurare sulle stazionali per non stare salendo e scendendo, capito? Piccolino, perché quello che ho io è grande, la T2 non posso portarmi la T230 su uno. No, allora questo va benissimo, non so se sia, secondo me è solo rosmetro, perché c'è potenza SWR stazionaria e poi c'è un regolatore, secondo me è solo un regolatore per centrare la cosa, il rientro, non è un accordatore, è solo un wattmetro, un rosmetro. Solo quello mi serve, ma non mi serve accordare niente, lo so misurare su, capito, col cavo corto, per non stare sali e scendimi. Capito, per non chiamare qualcuno col portatile, avere a provare, mi faccio tutto io, ma mi serve uno strumento, dai. Dove sei adesso? A casa tua? Se no qua siete rubili. No, vabbè, non io voglio, adesso lunedì mattina, già lo sai, lunedì non ci vediamo. Lunedì mattina, intanto non devo fare niente, io lo faccio lunedì, perché devo andare a prendere i tiranti, capito? Sì, questo è un bel vecchio, però ti posso dire già, secondo me è anche di qualità, perché sto guardando, appeso, è più piccolo di quello dello ZG, però appeso pesa di più dello ZG, è giapponese, la marca si chiama Oscar Black Electronic Corporation Tokyo. Va bene, giusto per darmi un riferimento per la misura giusta, capito? Perché non ne avevo mai stazionati proprio a zero, adesso c'è uno e uno, le voglio riportare a zero come erano prima, proprio non si muove neanche l'ago, adesso invece si muove appena appena, proprio una pignoreria, però la voglio, deve essere come dico io, capito? Già lo so, sei scrupoloso, peggio di me, tu dai, ma non fate a regolare, aspetta che è arrivata mia figlia, scusa un attimo, qua. Un attimo. Fai, sono qua. Eccomi di nuovo. Ehi, ehi, sono qua, stavo, che Gianfranco mi ha regalato nuovo, mai usato, dentro la scatola un alimentatore di quelli switching, però non sono quelli comprati dai cinesi, proprio quelli per computer, lui non compra niente dai cinesi. Sto mettendo il cavo di alimentazione a 12, adesso lo regolo col tester, capito? E qui ce l'ho alimentatore per portarmi su, in mansarda. Che io, è meglio avere cose. Qualcosa in più è sempre bene averlo. Cosa volevo dire? Adesso tu stai facendo le antenne, me lo stavi accennando, non ho capito però. Io non mi ho tolto la mantova dal lato strada, era in fondo, no? Nell'altra, praticamente nell'altra scala, il tratto è lungo, però sono due scale. L'ho messa lì perché mi toccava la direttiva grande, adesso la direttiva grande l'ho tolta, ma l'ho rimessa nel posto mio, proprio sotto la finestra della mia mansarda, capito? In mezzo tra le direttive e la verticale monobanda, capito? E quindi è molto più vicino a te adesso, e quindi il segnale sicuramente sarà anche più alto, non lo so. Controlla bene se c'è qualche differenza, sono con 20 watt per 4,40, come modulo sempre, dai. No, ma stai andando sempre a 9,60 abbondanti con i picchi. No, diciamo, anche se tu la metti girata di traverso con i catenter, arrivi sempre a bomba qua. Yeah. Ho eliminato quasi 15-20 metri il cavo, perché l'ho dovuto allungare il cavo, capito? C'era un barilotto allungato per arrivare in fondo, perché non avevo altro cavo. Dalla centralina del commutatore non ci arrivava. Invece adesso ci sono 4 metri dall'antenna, ci sono 4 metri di cavo e poi vabbè il cavo di discesa è sempre quello. Però avevo allungato il cavo, quindi ho recuperato anche in ricezione, come pulizia, o meno QRM e tutto. E hai mansarda cosa stai facendo invece? Non serve niente, non serve, devo salire per controllarmi le stazionarie, c'è la scrivania anche lì tutto. E inizialmente volevo fare una seconda sala radio lì. Radio già ne ho, per dire, posso mettere il 430 con l'alimentatore, l'altoparlante su, fare la linea del 430 su e la linea del 440 giù, oppure mettere il 140 su, posso farlo tranquillamente, capito? quando salgo commuto, c'è il commutatore elettronico, commuto prima di salire, però mi isolo troppo, Roberto, capito? Mi isolo troppo, non fa. Se non dai fastidio in casa, rimanetela in casa, finché uno dice dai, c'è gente, non voglio disturbare, a quel punto sì, c'è una stazione secondaria e va anche bene, ma se sei in una stanzetta tua, non dai fastidio a nessuno, rimani giù, che cazzo te lo fa? Vabbè, io ho la stessa stanza tua, la stessa metratura e tutto, chiudo la porta, non mi rompo le palle nessuno, qua c'ho il computer, c'ho le radio, c'ho la televisione, c'ho tutto io. Non posso dormire perché non c'è posto, sennò potrei anche dormire, capito? Ehi, dimmi una cosa, ragazzino, Riccardino ieri, sentito la vetta che dice si ha portato tre baracchini, vi è capitato di sentirlo andando alla gentiera che dormiva di lì col campo? No, io non ho sentito nessuno, a meno che vabbè, in questi giorni, ieri c'è un sacco di propagazione, magari se prova oggi lo sento benissimo, invece ho QRM0. Però ieri c'era un sacco di propagazione, quindi mi sa che sono l'unico che lo sente dalla gentiera, io e tu, perciò non l'ho sentito in pratica. Sì, ha detto lui, l'unico che ascoltava eravamo noi due, basta, negli altri li perdeva, molto prima dalla gentiera, prima Palmato non prendeva più a nessuno. E ok, cosa volevo dire? Vabbè, questa roba te lo scendo domani, me lo metto davanti nel passaggio quando vado in officina, nel corridoio, così scendo e te lo porto giù. Dopo provo a aprirlo a vedere com'è fatto, perché c'ha due strumenti belli grandi, non è una cagatina, nel senso, magari sarà brutto esteticamente perché è vecchio, però secondo me è molto meglio dello ZG, più preciso pure, poi i giapponesi non ne fanno porcheria. ZG è una grandissima gaggata. Ci sono alcuni strumenti, tipo quello che avevo incrociato, il 700, quello è un buono strumento, quello sì, ma gli altri, quelli normali, non servono a niente, anche il DM1000, PM1000, come cazzo si chiama, una cagata di strumento, è proforme, non è preciso, per avere precisione devi andare in alto, non ZG, no. No, ma giusto, a me mi interessa la regolazione della spirale, capito? Che potrei lasciarla anche così, c'è uno e uno, però no, non ne ho mai avuto, non si muoveva neanche, però. C'è uno e uno, però. Quando muovo proprio solleva per appena. E siccome mi dà fastidio, allora la voglio portare proprio com'era, a zero. Giusto, se c'è la possibilità di farlo è sempre meglio. Sì, perché la spirale l'ho tolta, ho messo le fascette nuove, evidentemente non ho rispettato la regolazione, non l'ho fatta a misura, l'ho fatta a occhio, capito? E quindi adesso la voglio fare a misura, intanto non ci vuole niente. Mollo il tubo, la faccio scendere all'altezza mia e la regolo e poi la ritiro su. Io lavoro benissimo anche da solo, soprattutto con la mantola, con le verticali, le direttive, ci vuole magari un paio di persone, ma solo perché sono pesanti, ingombranti, capito, ti puoi far male, tutto lì. Va bene, va bene, va bene. Poi non hai bisogno di barro, sei già a 40 metri d'altezza, hai bisogno di barro. No, beh, dove l'ho messo adesso la sto tirando su, prima di là era 2 metri di tubo, adesso qua c'ho 2 metri parificato nelle staffe, 2 metri più 2 metri sono 4, 2, 6, 6 metri la sto tirando su, no, per quello che sto mettendo i tiranti. Adesso la faccio bene, l'ho tutta monitorizzata, bulloneria tutta nuova, fascette nuove, l'antenna l'ho solo pulita, era vulcanizzata come il giorno che l'ho messa, vulcanizzante buono io uso, non tipo quello che c'è tu, quello ancora più largo che usavamo noi per i tubi con i tirè, ed è diventa catrame, diventa plastica, capito? Ci vuole taglierina buona poi per toglierlo, quindi ho lasciato tutto così, ho solo dato una pulita, una carteggiata, una pulita, i radiali sono nuovi nuovi, le viti, li ho anche smontati i radiali per pulire, figurati, le viti sono nuove nuove, le radiali, ho tutto messo il grasso, in tutte le viti, bulloneria, tutto messo il grasso, e tirata su, adesso devo abbassare di nuovo e fare questa regolazione alla spirale, perché deve essere a zero come era prima. Sì, sì, deve essere. Cacca, ma questo, se devi vedere come è costruito questa cosa, là. Ti mando le fotografie, mai vista una cosa del genere, questo wattmetro. Cacca, c'è una costruzione all'interno, c'è un tubo dentro con dei componenti, non è quanti ZZG, c'è proprio, c'è presente un tubo tu dentro, con una placca interna, con un coso, c'è un sacco di componenti, fatto veramente bene. Cacca, non mi immaginavo questa storia. Ma com'è non la girata da uno, che abbiamo fatto degli scambi, mi ha detto, buscami una cordatura, gli ho dato uno della ZG piccolino, l'accordatore è rosmetro, questo è fatto veramente bene, sicuramente anche preciso come indicato. Sì, ma ti ripeto, a me serve una cosa qua fuori, non sta lasciare scendimi, capito? Non sta lasciare scendere, faccio la regolazione giusta con lo strumento su e basta, e così la finisco. Ma ti ripeto, è una pignoleria mia, perché guarda, io guardo qua sulla T230, uno ufficio, quando parlo manco si muovono, dai, va bene, potrebbe andare anche bene, allora voglio portare a zero come erano prima. E ti mando le foto e poi mi dici se è una cagatina, magari è brutto a vedersi, però ti sto dicendo, fatto così non lo so quanti ne puoi trovare. Guarda, ma se me la guarda. Guarda, lo confronto all'MC60, non è piccolino, dai, è più di larghezza, è più o meno come quello della ZG, è più basso, ma gli strumenti sono molto migliori. Questo l'ho avuto, sì, è rosmetro, c'è la tabella però, un bel casino se non era la tabella di questo. Sì, sì, ce l'ho fatto l'impedenza anche, questo l'ho avuto anch'io, l'SVL200. Questo è giapponese Oscar, cosa vuol dire ci vuole la tabella, cioè? Ci vuole la tabella per misure stazionarie, segna anche i fatti, fatti stazionari. La tabella, visto quel pulsante, quella a fare, c'è una tabella, ci sono dei numeri lì, c'è una tabella. Cioè, quelli lì sono, come no, questo non fa regolare la potenza, quello servisse per dire la scala da 0 a 100, per dire se devi fare coso, perché non te lo dà diretto le stazionarie questo. No, quei numeri devi rispettare, c'è una tabella, capito? C'è una tabella, l'ho avuto questo, c'è una tabella, senza la tabella quello non serve un cazzo, perché ogni numero corrisponde a una tabella di movimento dello strumento. Ti do l'altro, dai. Vediamo, basta proprio a guardare su internet, io sinceramente non l'ho mai visto, mai usati questo, la prima volta, non mi ricordavo neanche di averselo, figurati. Sì, è una tabella, c'è una tabella, io qui ce l'avrei colorato a pezzi di cambio, perché c'erano i vetri rossi, l'altro a pezzi di cambio, l'altro mio riserva, però la tabella non mi ricordo se ce l'ho. Adesso cerco su internet se ti trova questo marchio, mai sentito io, ti ripeto, ho trovato ieri quell'altro che avevo, è questo, però l'altro l'ho già dato, questo qui mi è rimasto, ho detto no, ma lo tengo perché è particolare, ne avevo uno che avevo dato a Capri qualche anno fa, quello con l'antennino, te lo ricordi? Che c'era l'antennina della ZG, no, non è la ZG, di un altro marchio. Ecco per un controllo, grazie. Non sto uscendo, ecco. Ciao Tino, e ben sentito, c'è anche Claudio. Oh, ciao, te due, Sto provando un altro baracchino, con un più 5. Mi dai un controllo, grazie. Cosa vuoi sapere, di segnale o di radio? Entrambi, perché ho messo un più 5, non so se è compatibile con questa radio, credo di sì, perché mi dicono tutto, però. Ma diciamo, se voglio essere un po' pignolo, a me non piace, è molto nasina, esce sì, comprensibile, però è molto nasina, non è una tonalità chiara, pulita, naturale, dai, sembri equalizzato con tutti i medi sollevati. Si conferma, prova a sganciare a vedere, che è sempre agganzato, ormai l'ha pigliato, sgancia a vedere se migliora, perché anche satura. Guarda un attimino, no, c'è il microfono regolato male. No, ma sì, anche saturo. Saturo sei tu, già lo sai chi era saturo. Sì, ma non te ne con Rudon. Aspetta un attimino, guarda, ho aumentato il like e i toni sono due. E questa è una radio così. Aspetta, mi abbasso. Staccati, non puoi farlo agganciato, stacca, io ti sento saturo, stacca e poi vediamo, stacca prima. Tutto staccato, tutto staccato adesso, va. Un'altra guba, a quanto ce li hai, Tony? Mettili a zero e poi lo regoliamo, metti a zero. Zero, questo è zero, il volume, un attimino, ho anche un po' la batteria in scarica, comunque il volume è come a manetta, Metti Tony direttamente a 3, salta l'1 e 2, mettili a 3. Guarda un pochino, 1, 2, 3, prova di modulazione. Mettilo a 4. Addirittura, vediamo, 4, ecco qua. 5-6. No, a 3 vanno i toni, a 3. Vabbè, lascia staccato però perché poi cambia. Vabbè, così meglio va. Aspetta che l'ho distratto, provati. Bene, così sono come ha detto Claudio, eh? Un po' meglio, però diciamo non è troppo adatta, non la vedo molto adatta con quella radio. Lo so, questo microfono non è che... è un 48 mio, niente di particolare. Però gli ho messo il più 5 mio. C'è un po' di riverbero, diciamo, ti dà un effetto riverbero, come che sei in una stanza grande. Bene, guarda così si è cambiato. Aspetta un attimino, vedi un po'. Ma sei molto lontano dal microfono, stai parlando? Diciamo una cinquantina di centimetri, No, la radio già è chiara, però diciamo a te ti ascolto diversamente. Dai, ti do 5, bella, però non è eccellente, dai, sufficiente. No, mi interessava se funzionava l'apparato più che altro, il baracchino. Perché... niente, non è che me lo devo tenere, lo devo vedere se funziona e basta. Poi ognuno si mette il microfono che vuole, sulla data come vuole. Io questo avevo, anzi forse ho anche il normale. Sì, la radio già può andare, dai. Ripeto, non è eccezionale, però già può andare così, con i toni a 3 già può andare. Prova ad agganciare adesso, vediamo se cambia qualcosa. Guarda, questo era il baracchino. Questo ampli tutto suo. Aspetta che abbasso di potenza. Guarda un pochino, si è migliorato. A quanto ci lasci? Mi devi dire le posizioni che stai usando, perché così era satto la prova. E così l'ho abbassato di uno, era adesso a 3. A 3 già va bene, a 4 inizia a saturare, 4, 5, 6 ti satura la modulazione. Così a 3 va bene, il segnale è sempre 9+20, non cambia. Sì, no, non mi interessa qua. Era per vedere un pochino se... aspetta che cambio un microfono, va. Può andare, ti ripeto, non è 10 lode, però già può andare, dai, può andare, per essere una 48 con quel microfono già può andare, ne ho sentito di peggio. Dammi un attimo. Addirittura mi sembra meglio attaccato adesso, l'ultimo passaggio prima di saturare, prova a dire, fai le due prove. No, così è staccato, Robè. Staccato, prova a attaccare, dico, però attenta a non saturare, proprio qua la stavi saturando. E così è attaccato, guarda, 1, 2, 3, prova. Ma diciamo è bella anche attaccata, guadagni un pochettino più corposa, più potente diventa la radio, però devi stare attento perché salti un po' la voce e saturi. No, così a 3 va bene, Tino, puoi lasciarlo anche agganciato a 3, perché praticamente ti toglie un po' di acuti, capito? Ed è più bella la modulazione, però anche sganciato può andare, dai. Va bene, aspetta, adesso faccio un'altra prova, sto staccando e cambio microfono, aspetta un attimino, devo cercarlo però. Cambia, cambia, cambia, cambia. Buongiorno Barracuda, ben ascoltato, sono io Roberto Ettino che sta provando un microfono. Ciao Antonio, ben sentito. Ehi, ehi, vabbè, l'hai salutato quando stava parlando lui, ripeti. Scusa Antonè, ben sentito anche a te, dai. Ah, forse ho trovato il coso, il manuale d'uso di quell'Oscar. Ci vuole il manuale d'uso, te l'ho detto, perché ogni numero di quello strumento corrisponde a una posizione. A una posizione, capito? Se tu non sai dove mettere il numero, lui le stazionarie te le dà sfasate, i watt te le dà sfasati. Ma ti ripeto la cosa pro forma, mi è per non portare su la T230 che è un barasone. Capito? Giusto per non stare sali e scendi, me ne misuro su le stazionarie e poi pure anche se ti ripeto potrei lasciarle così e c'è uno e uno, non è che, ma sicuramente è come ho smontato la spirale per pulirla, poi l'ho riagganciata eccetera, non ho rispettato le misure e quindi sono saliti appena appena, perché nei canali alti ce li ho, nei canali bassi no, cioè nei canali bassi sì, nei canali alti no, quindi vuole tirata su leggermente. Capito? Vabbè, ma non fa niente, non è un problema quello, dai. È proprio una mia cosa, dai. Attenzione a Breckenbauer. Ehi, attenzione a Saturo. Anche adesso. No, ho detto attenzione a Saturo. Va bene, ecco, questo è un altro microfono, guarda. Questo è... c'è un abisso. Questo 10, quello da 5. Allora aspetta che provo a attaccare con questo. Adesso è staccato, eccolo qua, e così è attaccato, ha cambiato la modulazione? No, rimane stabile, anche più bella perché ti ripeto, gravi acuti che sono troppi, quindi va a compensare con i medio bassi. Bella, così questo è bello, un bel microfono. Cos'è, sempre lo stesso? Questo è un più 5 con sempre un 1048, però aiutato con l'Omero, che ti ho fatto vedere in fotografia, credo. Sì. Questo Omero va meglio sicuramente, sì. Magari riceve più ingresso, ha più stabilità e magari c'ha qualcosa a MOSFET, insomma. È fatto sicuramente meglio dell'altro, dai. Ascolta, adesso provo a aumentare, vediamo se va in saturazione. A me guardando leggermente, ma leggermente in negativo, poi non lo so, vabbè, poi confermi anche tu, sto aumentando di un'attacca, ecco qua, non so se ha cambiato, posso aumentare anche di un'altra, questo è l'ultimo passaggio. Ora, 1, 2, 3, prova, datemi conferma. Picchi non ne hai, segnale è fermo a 9,22 come sempre, tra me e te c'è questo problema, picchi non ne hai, la modulazione non ha assolutamente cambiato, mentre l'altro dal quarto scatto, quinto, sesto va in saturazione. Adesso sono al boom, non ricordo, allora abbiamo detto, questo è il sesto scatto, guarda, sì. 5, 4, 3, 2 e 1. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Così sono circa 2,50 alla sesta posizione. Non cambia di una virgola dal 4. Dal 4 si ferma sul 9,20 e rimane fermo lì. 5 e 6 non esistono, capito? Proprio non c'è nessuna variazione. Sì, la cambia ma non la satura, la cambia, diventa più corposa, però non la satura. Sto parlando di potenza. 1, 2, 3, 4 si vede la variazione. 5, 6 assolutamente niente, rimane, è come che non esista, ti capito? Oh, Roberto, hanno fatto qualcosa? No, niente di importante, dai, diciamo, va più che bene. E cambia la timbrica, toglie un po' di acuti e entrano un po' di bassi che non sono male, va bene. Rotti, tra il 5 e il 6, anche se a te lo strumento ti dice di più, il segnale non cambia, quindi c'è qualcosa, non lo so, dovrebbe cambiare, se da 180 arrivi a 250 o da 200 arrivi a 250 qualcosa deve cambiare, qua non cambia niente, il 5 e 6 come che non esistono, mi sembra che te l'avesse detto anche Massimiliano. No, vabbè, adesso sto lavorando con 200, giustamente per aumentare devi solo raddoppiare la potenza, quindi va bene. KK, ottimo, per me lo puoi lasciare così, non c'è nessun problema, Tino, capito? Buongiorno. Buongiorno a lei, no, è giusto per provarlo, quindi devo metterlo in vendita, perché non mi interessa averla, ne ho già uno e mettendo quello che ho. Mettilo in vendita, sì, se non ti serve ce ne vai, io la roba che non mi serve, vabbè, a volte la do, a volte no, non metto tanto l'armadio, perché vedi, quel B300 meno male non l'ho dato, perché poi ho preso un'altra radio e mi serve per alimentare, per dare un po' di watt in più, dai. Buongiorno, mi sembra Natalino, capito, quello se non ti serve che ne hai altri, lascialo, io lineari già ne ho 3, 3 più quello V1, quindi già va bene. Avanti Natali, comunque lascia, lo puoi usare quello in quarta marcia se lo vuoi usare, fino a quando magari lo dai, lo puoi usare in quarta marcia, ok? Avanti Natali, chi era Natalino? Chi è che ha salutato? Siccome non sono Natalino non ho risposto. Hai fatto bene, sei un signore, non ho capito, se non ti chiami Natalino perché devi rispondere? Ciao Tonino, buongiorno. Buongiorno anche a te, Tino, pure a Roberto. Andrà bene, riprendete. Riprendete, ciao Tony. No, adesso per prova, adesso stacco tutto e conservo. Riprendetevela, ciao ancora, Anthony, dai, riprendere Roberto. Ciao, tu vedi, anche io ti avevo riconosciuto, dai. Ok, ben sentito anche a te. Ciao Tino, dai. No, stavo guardando quella roba là, ma questa Oscar deve essere un marchio abbastanza prestigioso, visto che fa dei bellissimi apparecchi. Ci sono le tabelle, però non credo che servano per il coso, per regolare. Le tabelle forse sono per il, come si chiama, a seconda della banda di frequenza che lo utilizzi, là. Ho detto, Tony, ma perché c'è sempre questo rumore, questo innesto, questo ti porti a presso un innesco quasi? Perché ho messo tutto qua. Ma non devi aumentare, devi tenere costantemente tutto sotto controllo. Cosa aumenti? Il microfono? Aspetta, l'innesco c'è per forza, aspetta. Ecco, adesso l'innesco non le senti più. Non puoi modulare la voce, tanto lo geniale non c'è, mamma mia. No, la modulazione cambia più bassa. Ti l'ha detto, ma sono fesserie, ma lascia perdere. Ascolta lo Sparviero, tu, che non sbagli mai, non cambia assolutamente niente, lasciala così, che la radio è bella, uguale come quando la sollevi, però elimini quell'innesco. Dai, lascia così, lascia. Allora, solleva un po' più la voce, e adesso così, cosa devi sollevare il volume per poi innescare, più brutta, no? Mi sembra logico, così va benissimo. Avanti, barracuda, tu mettiti le cuffie, ascolti e scrivi, capito? E scrivi, e così vedi se fai errori, normale. Sì, lo conosco, no, io c'ho il tasto con tutta la situazione per fare telegrafia, ma è anni e anni che non le faccio. Ok, va bene, avanti, robe riprendi. No, vabbè, la telegrafia per chi piace, ci sono degli appassionati che la fanno ben volentieri altri. Io sinceramente già la conosco questa applicazione, c'è anche per il computer, mi hanno fatto vedere, questo che ci abbia anche scaricata, però telegrafia è molto lento a scrivere, a fare, è più bello sentire la voce, dai. Quello è per gli appassionati vecchi radioamatori di una volta, quelli normalmente sono persone molto anziane che si divertono così, diciamo, anche quella è radio, la radio è iniziata dalla telegrafia. Ok, cosa c'è da dire altro? Oggi meno male un po' si respira, una giornata un po' più piacevole, perché ieri verrò a casa, naturalmente mi sono sciolto, come sono arrivato a casa mi sono sciolto. Dalla, se voglio fare un appunto sulla mascherina, dico non serve a nulla, perché la mascherina poi la tocchi con le mani, hai toccato delle cose, ti metti i guanti 10 volte, la mascherina c'è 10 volte ed è più infetta, se effettivamente è infetta, è più infetta di quando del virus di per sé, per cui lasciamo, io sono contrario a mascherina, infatti non è bongo mai, le metto solo quando devo entrare in certi posti che ti obbligano. Te lo dico per conoscenza personale, perché so cos'è il virus, quante che dimensioni ha il virus e che cosa riesce a filtrare la mascherina, è una cosa inutile, non serve proprio a... Naturalmente se tu devi starnutire come educazione mi sposto dall'altra parte, indipendentemente dalla mascherina, è solo quello il problema. Stanno facendo tante di quelle cacchio di fesserie, dicendo tante di quelle fesserie, tutto per spaventare la gente e costringere la gente poco informata a farsi il vaccino. Io l'ho detto da febbraio, attenzione, che questa roba è tutta pilotata e servirà solo per costringere la gente a fare il vaccino. Tutti i morti, il 90% dei morti non vengono in nuda col coronavirus, sono altre patologie, è morte per altre cose. Poi se è morto col coronavirus è una cosa, è morto per il coronavirus è un'altra cosa. Adesso basta che c'è il coronavirus, muori uno, è morto per il coronavirus, questa è la realtà dei fatti. E qua ti do il discorso, se no sono 2 giorni a raccontare. Giustissimo, confermo anch'io. Se uno muore di infarto, coronavirus. Cazzo, non lasciare bianco, va per Gribug. Io rilasciatevi con queste manine veloci. Dai, io vi saluto e mi devo spostare in cucina. A più tardi, se coincide, buon pranzo a tutti, ciao. Ciao Claudia, che cos'è? 60 questo? Sempre 60, Io quando uso il K uso sempre 60, non è che cambia, ma non che non debba fare qualche prova, perché? No, sto dicendo, no, questo è inconfondibile, il rumore dello stacco. Vabbè, normale. Dai, ci sentiamo più tardi se coincide, se no buon pranzo a tutti, ciao. E anche io tra poco vado, ciao Cla, buona carica e buon tutto. Avanti Antonello, che passerà il mic a Tonino per salutare a Claudio. Ciao Claudio, buon carica batteria. Ma io tra 10 minuti invece mi accendo il barbecue, che mi faccio la carne arrosto oggi. Ma tu cucini fuori all'esterno, Tony? Io di campagna, c'ho il cortile qua. Sì, sì, no, lo sapevo, dicevo, normalmente la rotita te la fai sempre fuori, dico, non c'è bisogno di cucinare in casa. No, fare fumo in casa, no, no, no. Fuori è abbastanza grande, sia sotto la veranda che fuori, lo faccio fuori solo per la giornata. E non devo, non disturbo nessuno. Tavolino messo sotto la veranda, ci mangia bene oggi. Ehi, ok, adesso facciamo un rilancio sul canale 10, se qualcuno nuovo vuole entrare, avanti sul 10, se no riprendi tu Antonello. Sì, guarda, non per farmi, per vantarmi, però sui satelliti posso dire la mia. Tutto centraggio parabole, polarizzatori, eccetera, eccetera, diciamo c'ho una discreta esperienza. Non grande, discreta, dai, almeno a livello informativo. Posso fare degli impianti, dai, sono capace di fare degli impianti motorizzati anche di livelli abbastanza importanti. E, diciamo adesso è molto più semplice, prende chiunque attacca, ti danno quel cacchio di strumentino o anche col televisore, quando vedi che aggancia il segnale ti guardi un'altra parabola. Ma quando si facevano lavori tempo fa è un po' simile. Infatti ieri abbiamo avuto una bella discussione con Fabio, anche lui ho visto abbastanza addentrato, però sono sicuro che ha fatto degli errori. Sì, ma lui, allora io quando faccio tu devi cercare l'arco polare, per cui lui quando mi parla di 12 gradi di differenza, di lì è completamente fuori dall'arco polare, non c'entra niente, il pistone è un po' più lungo, un po' più fuori, perché al limite non ti arriva a fare tutti, non dico 180 gradi che è impossibile, perché non ce la farei mai, arrivare a fare 180, 90 più 90 a destra e 90 a sinistra, massimo arrivi in Italia, nelle nostre corde, all'equatore solo puoi fare 180 gradi, perché la banda, come si chiama, l'orbita dei satelliti stazionaria è proprio equatoriale, esattamente al centro, se tu vai all'equatore metti l'antenna a piano terra, nel senso parallela al terreno, la devi tenere tipo un ombrellone, la tieni l'antenna, un ombrellone capovolto, per cui non hai nessun problema, lì riesci a fare tutti i 180 gradi del 90 più 90, però non ce ne sono satelliti così di orbite così basse, diciamo. Normalmente qua in Italia riceviamo dai, io sono arrivato a 60 gradi est, diciamo fai sui 50 gradi ovest, per cui sono circa 106, 5, 110 gradi, anche se adesso mi sono fermato a 48 gradi, mi sembra, l'ultimo che ho memorizzato a 48 gradi, lui probabilmente ha ricevuto solo il satellite nell'arco di 20, 25 gradi, per dire è andato 10 gradi ovest e 10 gradi est, almeno da quello che stava dicendo, per cui non te ne accorgi, quando vai tutto a sinistra non prendi più nulla, se ti sposti più di quell'inclinazione non prendi più niente, perché è solo quello il problema, lui non ha trovato esattamente la fascia dei satelliti, si trova magari al centro del fascio di quei satelliti lì e riesce a prendere, ti sposti appena e perdi tutto. È un po' delicata la situazione di centraggio, dove soprattutto più grandi sono e più difficile è. Soprattutto ti ripeto, io con la grande basta 0,5 gradi di errore e hai perso tutto, non prendi più niente, cioè magari prendi quelli centrali, quelli tutti a est e a ovest li perdi completamente. 0,5 è una cosa impercettibile, lui ha parlato di 12 gradi, probabilmente utilizza i satelliti quelli vicini da 16 gradi, 13 gradi, 10 gradi, quei 4 satelliti che sono uno attaccato all'altro, che non c'è problema per ricevere anche con un'antenna piccola, magari lui riceve di striscio, li prende anziché a prendere a fascio intero, lo prende un po' di striscio, per cui secondo me lui era fuori dal fascio. Break. Sì, avanti il break. Ehi, dai, buongiorno a tutti, dai, doppio rumo, ho provato a cambiare il cap sulla roba, questa meglio va. E questa spinge un po' di più, infatti adesso si vede la modulazione più forte. Cavagava, dai, va bene. Antonio, come va? Ho messo una capsula di quelle verdi, dai. Andavo, dai, vi ringrazio, dai, ho finito il lavoro adesso, devo sistemare tutto. Ci sentiamo, dai, rimango in ascolto comunque, dai. Ehi, ciao Gianni, vai Tony. Ciao Gianni, ben sentito anche a te, Mimì, anche a telefono. Ok, tanto devo preparare anche il fuoco, dai, ci sentiamo, vado a fare preparare poi per la carica. Ciao Roberto, ciao Antonello e ciao Gianni di nuovo, alle prossime. Ciao Tonino, ciao, ci sentiamo, dai, buona carica. Ehi, ciao Tonino, ben sentito, buona carica, ci sentiamo eventualmente, se coincide più tardi, vai Antonello. Again, ma di cosa sto parlando? Di antenna o di ricevitore? Vale. Si chiama o control box oppure posizionatore, detto in parole povere italiane, preferisco chiamarlo posizionatore. Di lì ci escono dei cavi che comandano il motore sul palo che fa ruotare l'antenna. Diciamo lo stesso principio dell'antenna parabolica, la parabolica diciamo non ha interesse a girare su 360 gradi, utilizza, mentre l'antenna radio amatoriale la fai tutto i 360, per cui parte da 0 sino a 360. Le parabole massimo devono avere 180 gradi, teorico che è impossibile perché non esistono satelliti in Italia ricevibili oltre una certa inclinazione, massimo riesce ad arrivare a 62 gradi qua in Italia, diciamo al sud Italia, al nord è ancora peggio, e deve avere il campo, l'orizzonte libero, perché se c'è magari un palazzo o una montagna davanti non riesce neanche ad arrivare a 60 gradi. No, non lo posso, ma il principio di funzionamento è sempre quello, ci sono quelli che hanno i tastini nord e sud che giri, ovest e ovest, diciamo due tastini, oppure c'è proprio il manopolone che c'è una scala graduata, ci sono i gradi e ruoti, come può essere un potenziometro, ho detto volgarmente, c'è una specie di cosa, ti segna le posizioni, poi ci sono quelli più evoluti che hanno anche le indicazioni digitali dei gradi che stai andando, tutto lo via a zerare a nord, quando la installi, non so se l'hai mai fatto, ti metti la parabola esattamente a nord, è quello lo zero, e poi ci sono i gradi 1, 2, 3, 4, fino ad arrivare al giro completo 360 gradi, per dire 0 corrisponde al nord, cosa ti posso dire, la Spagna, diciamo il punto di riferimento al nord, nelle nostre direzioni, dopodiché ti devi spostare per la Liguria, ti sposti di 10 gradi ad ovest, anzi ad est, non a ovest, perché la Liguria è leggermente un po' più spostata, la Toscana diciamo, non proprio la Liguria, mi sposto di 10 gradi, e così dall'altra parte, e poi se devi andare a sud, se devi andare verso Cagliari, per dire, ruoto, dico, sto dando delle indicazioni così, di 180 gradi e mi faccio la zona di sud della Sardegna, anche se sono cose molto empiriche, perché non è effettivamente di 180 gradi la rotazione tra Sassari e Cagliari, potrebbe essere molto di meno. Dimmi il modello che lo provo a cercare, hai scritto HI Gain, così. Allora, aspetta, dimmelo lentamente, quindi Ancona, Italia, Gorizia, Ancona, e poi, eccolo qua, lo sto guardando adesso, aspetta, immagini, ah sì sì, è carino, è una bella cosa questo, e il coso, il controller c'è la verticale, c'è una specie di scala quadrata verticale, diciamo, tipo uno strumento... Non so se sei tu che sta innescando di brutto o c'è qualcuno che sta mettendo portante. No, niente, niente. C'è una scala graduata bianca con un ago rosso, così è. Una domanda, c'è anche un tastino, c'è scritto speed sopra e poi c'è quello che regola. Sì, sì, no, è bello. Poi c'è anche un altro modello che addirittura c'ha la regolazione della velocità, per dire il movimento dell'antenna, del rotore lo puoi anche regolare, per dire, anziché stare per fare un giro completo, normalmente un rotore ci piega, non dico un minuto, ma almeno 40 secondi, 45 secondi. Questo c'è anche la possibilità, questo sto guardando io qua, però è simile a quello che c'è un tastino, un potenziometro piccolino, c'è scritto speed, quello regola anche la velocità, non l'avevo mai visto, bello. No, no, un bel apparato sicuramente, peccato che non ha il motore, perché qua c'è in fotografia anche il motore. No, assolutamente, i rotturi sono cose molto interessanti, dai. E se riesci a metterlo, naturalmente devi fare un bel lavoro a cercare di sistemarla bene l'antenna. Io lo uso con le parabole, l'avevo montato su un'antenna della 27, poi l'ho dato via sia l'antenna, il rotore mi è rimasto nuovo, ne avevo due di quei rotturi, uno l'avevo anche messo in ordine anche per Claudio, gli avevo dato un motore io perché era mezzo difettoso, l'avevamo un po' mezzo provato, ma era un po' economico quello che c'ho io. C'ho il control box giù, ancora nuovo, il motore ce l'ho da parte, me lo tengo per fare altri tipi di cose, non per la 27, dai, per certi tipi di cose, e poi c'ho la possibilità di montarne quello sì che è una cosa di lusso, di un vecchio impianto, vecchio relativamente, un impianto parabolico, però fa solo i 180, con il display digitale giù ti dà proprio i gradi in digitale, dice 15 gradi est, 15 ovest, e come si muove ti indica il movimento dei gradi, quello è proprio un apparecchio super professionale, e se vedi il motore ti mette le mani in testa, serve per pilotare parabole anche di un certo peso e dimensioni, dai. Ok, riprendi Antonio, ciao, buona carica, sto aspettando anche io, tra poco si mangia anche dalle parti mie. Ok, ciao Antonio, è sempre un piacere ascoltarti, e buona carica, buon tutto, e poi eventualmente ci sentiamo il pomeriggio dopo pranzo. Break. Adelante. Chi sei, Gianni? Poi te Gianni, Daniele sono. Cazzo Daniele, cazzo a te, buh. La voce tua ogni tanto è diversa. E beh Daniele, come andiamo? Bene, bene. E allora, che si dice Robè? Cacco, si assomiglia in una maniera impressionante alla voce di Gianni Lombroffetta, ma senti tu. Eia. Ma poi anche lui, che si dice lui. Se tu non mi dicevi niente, io ho convinto che eri Gianni, dai. Perché sono da un po' che non lo sento, per cui la voce non ce l'ho mai, mai memorizzata. Come va, Daniele? Tutto a posto? Non sei riuscito oggi a fare raid? No, oggi niente. Oggi andiamo e stanotte si lavora. Ancora in combattimento, sì, dai. E allora? Sempre in guerra. Con quello stai uscendo, Daniel? Questo è l'ala 87, robe. E il microfono? Il microfono è gemello della CTE, soltanto che è marchiato Midland. Della CTE è marchiato Midland, ma amplificato naturalmente. No, originale, normale. Lo spinge forte con la radio, magari non dico che sia bella corposa come modulazione, però la radio è chiara e forte, magari un po' più pronunciata di tonalità medie, però si sente bella, chiara e forte. La mia timbrica è che non c'ho bassi, diciamo, dai. Ti poni un coso, un fazzoletto davanti al microfono. Oh, yeah. Vabbè. L'importante è sentirsi, dai, Robè, questo lo uso di battaglia sul 45. Ma ti stai aiutando, Dani? Cosa, Robè? Ti stai aiutando con qualcosa? No, sono con 2 watt io. Zero aiuto. Cioè, dei picchi di modulazione spaventosi, stavo. Da 9,15 arrivi oltre 9,20. Scappa di rosmetro. Va bene. Tutto funge allora. No, veramente, c'ho 2 watt tondi. No, già fai la grande, Daniele. Vabbè, tu arrivavi sempre forte, niente da dire. Però, cacchio, spinge parecchio. Ok, aspetta, lasciamo un attimino in bianco. Se nel frattempo nel 10 qualcuno ha desiderio di parlare con quella bella ruota che è la mia e la tua. Avanti sul 10. Io sono Fabio di Arcorso, buongiorno. Mea Fabio, me, anche lui. C'è Daniele, uno dei più forti della zona bassa di giù, dei vicini ai carabinieri. Praticamente dal basso viene. Saluti a tutti, Ciao Fabio, ben sentito, dai, anche io qualche minuto rimango ancora, sto aspettando che me ne diano da mangiare, sennò mi arrangio. Pianatina di LD? Cosa hai detto, scusa? Pianatina di LD, se no ti arrangi? Magari, io stavo già pensando a ruzzicare qualche pezzo di tavolo qua, però è un po' duro, dai, non so se sia buono da mangiare. Ok, vai Daniele per Fabio. Salutoni Fabio, ben sentito, cordialità. Ciao Daniele, ben sentito anche a te. Bella radio, bel segnale, bella voce, insomma, bello tutto, complimenti. Scappa di rosmetro, a che zona moduli Fabio? Luna e sole, con antenna a centro ringhiera, perciò con tutti i difetti del caso. Ti arrivi forte anche tu, dai. Non ci possiamo lamentare, segnale 7, radio 5, va più che bene. E io quando ti arrivo, Daniele? Ci arrivo a 9. Tu lo superi, Robè, arrivi a pelo del 30. Vabbè, già se la mette Fabio l'antenna, anche lui schicchierà forte, dai, considerando le condizioni. Ti ripeto, anche l'altro giorno ho detto che siamo vicinissimi, arrivava a basso a me, 9,10. Adesso, meno male, già ha migliorato tanto, ma come si mette l'antenna sul tetto lo fa male a un bel di gente, Fabio. Capito. Io voglio parlare con voi, cioè se ti arrivo a Santiago 1, Radio 5, io sono contento. Magari relativamente, dai, come qualcuno dice, non vi faccio parlare con nessuno, ti schiaccio, io vabbè, a me non esiste questo discorso della forza, io non ne ho mai fatto, non me ne è mai fottito uno da riprendermi gli amplificatori lineari, io esco sempre con la potenza lì minima per questo tipo di apparato e non me ne frega niente. Se mi ascoltano, e tra l'altro mi ascoltano quasi tutti a me, non ho grossi problemi di ricezione e di trasmissione. Poi se qualcuno vuol fare le gare a farsi sentire in Nuova Zelanda, problemi loro. Sì. Vedi come ne arriva Daniele, nuovamente guarda il segnale, visto che muove bene gli Smith sia di uno che dell'altro, cioè vuol dire che è bello pieno ed è chiarissimo, forse è chiarissima, una modulazione così, io sono abituato a una modulazione magari di una radio abbastanza alta e anche se arrivo di un pelo di segnale magari è comprensibile, capito? Anche se poi alla fine magari si può uscire meglio eccetera, va bene, l'importante è che per esempio possa arrivare a Barracuda oggi, ieri stavamo parlando e anche se lui è in un fosso, io ci ho andato tutta tantino, però comunque riuscivamo a parlare, vedi, un po' di magia è questa. Va bene così, sono condivido al 100%. Parte che ti sentano in radio, poi se arrivi 9.50 arrivi 7, l'importante è che la radio sia chiara e comprensibile, quello è fondamentale. E chi fa più effetto è sempre l'antenna, non tanto la potenza. Chi irradia l'antenna è come l'hi-fi, se non ha le casse, vuoi avere l'amplificatore migliore del mondo, chi esce il suono sono le casse. È la radiofrequenza, se non hai antenna puoi avere 10 kW, ma se l'antenna non irradia e se non hai posizione non fai nulla. E allora, quando facevo gli impianti, dicevo, un coppio amplificatore ci hai messo? No, te l'ho detto che con quella cifra oggi ci va l'amplificatore. Il mio amico ci ha messo le casse, l'amplificatore e l'equalizzatore con quella cifra. Allora, io ti ho messo solo le casse, come suona? Già lo so, ma purtroppo chi sa ascoltare c'è poca gente, chi sa ascoltare la musica, il rumore ce ne sono migliaia, poche gente sono in grado di percepire il suono dal rumore. E io devo finirti il ripetale, adesso sto costruendo un telefono MC valvolare che deve andare a uno che ha un orecchio che, cioè io una volta che l'avrò fatto, provato, ascoltato e magari anche soddisfatto, comunque rimarrò lì in pensiero che arriva questo mio cliente che tra l'altro si chiama Roberto, tanto per stare in tema, ci mette l'orecchio lui e inizia a parlare 20 minuti e capace che vuole sconciare di fare. Cos'hai detto? Un prefono, Un prefono MC. Ciao Roberto! Una band che costa 1500 euro più o meno, adesso ce la devo abbinare al piatto Addison Audio, che è un piatto che in quelle condizioni e di quel modello costa intorno ai 5000 euro più o meno, una pentola inglese. Gli ho fatto tutti a VRO, gli ho fatto l'Azimut, gli ho controllato l'antiskating col piatto, con lo specchio, con le bolle, con tutto, perché volevo usare un assetto che si usa per fare i dischi di solito, però usava l'assetto, mi piaceva la 600S, poi sono riuscito con questa testina qua, praticamente adesso devo andare a casa sua a Maddalena, ci passerò una giornata intera per riuscire a tagliare la benza. Ok, no, la risonanza sono molti prodotti, diciamo, ormai c'è una varietà di cose, di scelta sull'alta fedeltà, ti spaventi, prezzi fuori mercato da mille a anche milioni di euro, ho visto amplificatori, cose spaventose, diciamo sono degli studi più che altro, non sono proprio amplificatori solo per le miri, per gli shake, ho visto degli amplificatori da paura, quello che ha fatto Pivetta, che costa 1,5 milioni di euro, che ha 25 kW, pesa una tonnellata e meno, non so se l'hai visto, quello di Pivetta. Andrà più bene. Oh, scusate, riprendere, mi hanno chiamato. Dai, ci sentiamo le prossime se coincide. Buon proseguimento del QSO. Ehi, ciao Daniel, quando vuoi, è sempre un piacere ascoltarti. Vai Fabio. Ciao Roberto! Buona carica e ci sentiamo il prima possibile. Dai, rientra il pomeriggio che ti aspettiamo. E chi è questo qua che c'ha un Ariston Audio? Qua è fatto detto a Sassari, non è che ce ne siano molti che si possono permettere un giradischi del genere. Roberto, mio cliente, imprenditore, costruttore di La Maddalena. Ciao Roberto, mi senti? La giorno che gli ho riparato un Meros e gli ho fatto scioccato. No, ti sento, sì. A Milano, nulla. Ciao Fra. Roberto, mi sente? Perché c'è Fabio Spidi Gonzale che schiaccia all'istante, non, siccome sono a 100 metri l'uno all'altro, e allora è impossibile ascoltarmi, Roberto. Double Crown, un attimo che parla. Rifatto a valvole. Ciao Roberto. Sono usciti dal DAF. Non mi sentono. E hanno fatto una cosa. Non mi sentono, per forza, si schiaccia all'istante. Loro perdevano 5 milioni per intenderci. Gli ho riparato quello e non mi molla più. Adesso ogni cosa che c'ha deve passare per me. È tutto fuori valvole, è tutto fuori giradischi, è tutto fuori il DAF, il 57S, la Sony che tutti hanno buttato, io sono riuscito a ripararlo. Ma tu già mi senti però? Sì, io sono Marino, sono Claudio. E li avevo messo nel piatto, gli ho detto bene. Sì, vabbè, dai. No, perché non fa in tempo a terminare Roberto che sta parlando quando finisce di parlare, e poi c'è subito questo Fabio che io tra l'altro lo sento, che schiaccia istantaneamente, dunque essendo loro vicini non mi può sentire, ci mancherebbe. Aspetta un attimino Giulio, che ti sentivo sotto di Fabio, io ho detto un attimino forse lui non ti sentiva Fabio, cerchiamo di mettere un po' di ordine. Fabio, c'è anche Giulio, infatti stavo aspettando. aspettando che interrompesse per farti entrare, Giulio. Ok, probabilmente non vi siete sentiti uno con l'altro. Avanti, Giulio, per Fabio. No, e lui già lo so che mi senta, ma io lo sento a lui. No, stavo pensando, siccome ho fatto un paio di chiamate non mi hai mai sentito, evidentemente tu non fai in tempo a terminare la parola che Fabio ha già schiacciato. Voi essendo vicini, chiaramente non mi puoi sentire, tutto lì stavo dicendo quello, Robè. Comunque ti saluto, a te e a Fabio. Ok, vai Fabio, purtroppo succede queste cose, ma infatti lui sennò quando si sistema l'antenna. Avanti Fabio, per Giulio, sarei ascoltato. Scappa, speriamo di riuscire a guardare un po' il big game, sperando di tirare troppi rumori, magari ti faccio di radio. Giulio, se mi ascolti ti chiedo scusa, ma dopo ti faccio più scherzi, perdona. L'hai ascoltato Giulio? No, non arriva qua, non muove nemmeno la lancetta, nulla, no, non arriva assolutamente. Ah vabbè, allora purtroppo è un problema, dai. Finché non sistema qua, purtroppo, cioè purtroppo, buon per me e buon per lui, arriva fortissimo, arriva a 9.35, dai, siamo molto vicini, mi dispiace per te Giulio. Stava parlando di un argomento, come si chiama, di molto interessante, diciamo, di alta fedeltà audio e non di radio, stavo parlando, infatti volevo fargli anche qualche domanda. C'è qualcosa da dire tu nel frattempo, Giulio? Giulio. Sì, no, è senza antenna, è senza antenna Fabio, lui stava all'antennino. È per quello che non lo sentiamo. E vabbè, no, non è un problema, Robè, figurati. No, perché non mi sentivi, perché ho subito immaginato che lui spremeva praticamente contemporaneamente a quando smettivi tu, ed è per quello che non mi sentivi, Robè. Ok, dai. C'era Daniele, ha salutato anche Daniele. Allora, mentre puoi andare, Daniele ha vado via. Chi c'è adesso? È stato qualche altro? Sì, avanti, l'altro amico. Sono io, vi saluto, ma dove non ascolto. Ciao Roberto, ciao anche a Fabio, che io ascolto un rapporto di 8, 8, Radio 4, un po' bassina. Ok, ciao Giulio. Se non vi ascolto, riprendi Roberto, cambio. Ciao, ben sentito anche a te. Mi dispiace, purtroppo, quando ci sono questi problemi, che magari uno è vicino, ascolta l'altro. Anche a me qualche volta è capitato che c'erano gente giù a Porto Torres, molto bassi, con dei veicolari o in macchina, non lo so, capitato, però ci dobbiamo arrangiare, dai, vediamo un pochettino che Fabio tra qualche momento si sistema un po' meglio l'antenna, così sarà ascoltabile da tutte le parti, dai. Ok, di nuovo Fabio, a te il mic. Scusa Giulia, per favore, che sto facendo parte di stretti che devo